fossi yo, y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Facciamo un esperimento. Quanti mi stanno ascoltando in questo momento seduti al volante mentre stanno guidando? Mi piacerebbe se qualcuno di questi potesse un attimo, fermandosi e non facendo nulla di scorretto, e chiamasse l'800240024, farò un particolare omaggio al primo che mi chiamerà mentre è alla guida. Perché? Perché oggi chi è alla guida è la cavia di questo programma. Io l'ho osservato su me stesso, l'ho osservato sulle persone che conosco, su chi mi sta vicino. Noi abbiamo varie possibilità nel corso della nostra giornata di trasformazione, di metamorfosi. Diventiamo altre persone, siamo un'altra persona quando entriamo nel posto di lavoro, siamo un'altra persona se dobbiamo fare il provolone con la collega che ci piace, siamo un'altra persona se dobbiamo mostrare un appeal particolare perché dobbiamo fare bella figura e via dicendo. Siamo uno schifoso se stiamo dentro casa a contatto con chi ci vede e ci sopporta tutti i giorni, ma c'è un luogo comune particolare, c'è un ambiente parallelo, una sorta di dimensione parallela rispetto alla nostra in cui radicalmente ci trasformiamo. E questa è l'automobile. Quanti di noi entrando in automobile si rendono conto che improvvisamente cambia la dimensione dello spazio? Da come ci si pone nei confronti di chi non ha l'automobile innanzitutto, già è svantaggiato, diventa un pedone. Tu sei pedone, io sono un automobilista. Già si cambia la categoria e dal punto di vista del pedone accade la stessa cosa. Io vado a piedi, ti vedo a te che mi sfrecci davanti, che non aspetti che passi al passaggio pedonale, che mi parcheggi sul marciapiede e non mi fai passare. Insomma, gli uomini scoprono improvvisamente una divisione radicale in categorie opposte e antagoniste a seconda che siano dentro un'automobile o sia che siano a piedi. E l'automobile quanto racconta di noi stessi? Noi definiamo per categorie, ci sono quelli con i SUV, spocchiosi, schifosi, tutta invidia magari avercelo dentro il garage bello, pulito, organizzato con il suo navigatore, con le sue belle gommone. Figuriamoci, uscire di casa con il SUV la sera per le vie di Milano all'ora dell'happy hour, si torna a casa con una macchina piena di carne palpitante, sono sicuro, convinto, così mi immagino. Oppure quelli con la macchinetta piccola, orrendi, chi ha quelle macchine tagliate a metà che parcheggiano di traverso, si classifica subito, poi quelli che vanno col cappello. E poi cosa si fa dentro la macchina? Ai parcheggi tutti si scaccolano, è normale, tranquillo, l'avrete fatto anche voi, l'avrò fatto anch'io, non è che vogliamo essere dalla parte di coloro che tengono le distanze. Insomma, dentro l'automobile improvvisamente è come se noi fossimo dei centauri, ci trasformiamo, esiste un connubio fra la macchina, l'oggetto metallico, la tecnologia e la carne umana, ci fondiamo con l'automobile, diventiamo un tutt'uno, diventiamo una sorta di bestia semovente, puzzolente, velocizzante, orgogliosa e svettante sul resto dell'umanità. Insomma, ma cosa facciamo quando entriamo in automobile? 800240024, innanzitutto un attimo di raccoglimento. Dalla superbia del volante, dal desiderio d'esser grande, da febbre di velocità, libera me, Signore, da leggerezza e indifferenza, da distrazione e sonnolenza, da scortesie e malumor, libera me, Signore. Perché tranquilli padri di famiglia ti guardano come fossero belve sanguinarie? Perché oneste mamme all'accompagno scolastico mostrano gli artigli pronte a strapparti le pupille? Come mai teneri nonnini con il cappello in testa spalancano le dentiere come zanne fameliche? Semplice, stanno guidando nel traffico cittadino. Ma sentite, potresti andare un po' più piano, eh? C'ha ragione. Lo sai che stanno in anticipo sulla tabella di marcia? Tocca calate 5 gradi, se no spallamo tutto qua, eh? Appena si allaccia la cintura, l'essere che guida si teletrasporta all'istante in una dimensione preumana. L'automobile diventa una macchina del tempo che lo porta indietro anni luce nel suo cammino evolutivo, fino a che, terribile, riemerge dalla sua natura profonda. Ma te ne accorgi di qualcosa? No, di che cosa? Te ne accorgi che sta macchina c'ha la testa abbassata? No. Io ho lanciato questo argomento ieri, come sempre faccio, su Facebook, sul mio profilo. Beh, mai ho avuto un numero così alto di risposte. Centinaia di persone hanno subito capito qual è la chiave della domanda, della bestialità che accade, della alchimia folle nel connubio fra essere umano e oggetto automobile. Questa mattina alle 9 già mi sono arrivati tantissimi messaggi, ma ve ne segnalo due in particolare, un uomo e una donna, uno statico e uno dinamico. Giovanni dice: dalla finestra del mio ufficio, quasi in centro, vedo arrivare un enorme SUV, alto 3 metri, largo 3 metri, lungo 6 metri, con le ruote di un trattore, che occupa lo spazio di 3 automobili normali, e vedo scendere a fatica una donna, non più alta di 1,55 m, magra, peserà se no 45 kg, tutta orgogliosa del mostro che si porta dietro. Quello che mi viene a pensare non lo dico. Il rapporto tra la massa enorme, invasiva dell'automobile e l'esiguità del suo conduttore, un po' come il mago di Oz. Dentro questa macchina tremenda e spaventosa c'è sempre un omettino piccolo piccolo. Silvia invece dice: numero di conducenti che ho mandato a Fan questa mattina, 5, per le seguenti motivazioni. 2, per aver improvvisamente casualmente inchiodato e girato a sinistra senza mettere alcuna freccia. 2, per aver parcheggiato in tripla fila, soliti SUV accompagnatori di pargoli, questa è una costante, il SUV con la mamma che accompagna i bambini a scuola, sempre inchiodando all'ultimo momento. 1, guidatore di scooter che nel cercare di incunearsi in spazi volumetricamente improbabili fra una mia e l'altra macchina ha quasi scardinato il mio specchietto già instabile. Ecco il primo che chiama. Nicola, buongiorno. Ciao. Lei in macchina? Sì, ovviamente. Tu hai chiesto uno in macchina, io sono più in macchina di così, non si può. Benissimo, spero che tu non abbia un auricolare o gli adeguati strumenti per non rischiare la tua vita. No, no, tutti quelli come me che stanno in macchina tutto il giorno l'auricolare ce l'hanno. Ah, quindi te ormai praticamente la tua seconda casa, l'automobile. Sì, io ti volevo segnalare, a parte tutte le risse che possono capitare con i pedoni, eccetera, invece un lato assolutamente positivo. Cioè, noi che ci spostiamo continuamente, utilizziamo la macchina come momento di riflessione e delle volte mi manca. Cioè, io quando sono a casa per le ferie ho bisogno delle volte di salire in macchina e di star via 2 ore. E cosa fai? Vai in garage, ti chiudi dentro e pensi? No, quella lì è una mania che secondo me no, quello no. È che salgo in macchina e no, perché di solito queste cose vanno a finire con il tubo di scarico dentro l'abitacolo, conviene sempre coinvolgersi un po' con il mondo. Se mi capita ti avverto prima, però non credo, proprio parti e poi niente, l'automobile diventa un punto così perfetto di concentrazione che a un certo momento dopo 5 minuti tu guidi in automatico e con la testa tiri fuori delle cose che normalmente se sei a casa con i bambini non riesci a trovare. Cioè, forse anche per questo tanta gente poi si va a spiaccicare contro gli autotreni. No, noi siamo, secondo me arrivi a un livello di perfezione assoluta, cioè dei meccanismi di guida, infatti molto difficilmente chi è molto esperto come noi fa grossi incidenti, perché tu hai dei meccanismi di guida che sono perfetti, la distanza di sicurezza. Quindi scusami, l'automobile diventa quasi come un luogo mistico, è quasi un tempio, tu lì ti concentri e ritrovi te stesso, come assolutamente andare in un luogo di meditazione. Assolutamente, perché i meccanismi che quelli bravi oppure quelli esperti adoperano sono dei meccanismi di sicurezza assoluta quando guidano. Quindi tu mi hai contraddetto dopo 5 minuti che io parlavo. Io dicevo diventiamo delle bestie, tu dici diventiamo dei santi dentro l'automobile. Ma no, questo nelle parti autostradali. Poi mi hai fatto venire in mente un bellissimo film di Gassman, di quando, non so se ti ricordi, lui cercava di attraversare la strada sulle strisce invendo contro i pedoni, poi salta sulla 500 e parte come un pazzo più cattivo degli altri, un film degli anni 60. Ah, quello dei mostri, perché io c'avevo pronto il sorpasso, esatto. Con Gassman, sì, cioè, la trasformazione, la metamorfosi, esatto, l'uomo esatto. Diventa bestia. Va bene, io ti ringrazio Nicola per questa tua succosa testimonianza, invito altri a chiamare. L'abitacolo dell'automobile diventa un luogo privilegiato, diventiamo qualcos'altro rispetto a quello che siamo. Per Nicola è il luogo della comunicazione, è il luogo della introspezione, per altri diventa il luogo della massima esplosione della propria bestiale vitalità. Facciamo anche noi questo salto nella nostra sostanza primeva. Riconosciamoci come eravamo un istante prima della scintilla, che da bruti ci fece incamminare verso la dignità umana. In parole povere, inebriamoci dell'esaltante piacere di fondersi con il metallo dell'autovettura, trasformando noi e lei in una fantastica macchina di sterminio. Non è casuale la scelta del veicolo trasmutatorio. Ogni umano sceglie il suo carapace a misura della sua ombra primordiale inespressa. quali sono le metamorfosi umane in ambiente abitacolare? Ogni umano mostra la sua aggressività in ragione della sua automobile? La psicologia da cucinino afferma che più sia grossa l'auto, più chi la guida abbia problemi per accettarsi. Ma non è vero. Altri insinuano che dentro l'abitacolo la gente pensa di essere non vista. Si mormora che l'85% degli automobilisti fermi in coda, al semaforo o anche in marcia, quando non telefonano o smessaggiano, hanno le dita intente a nettarsi le nari. Altri ancora sostengono di aver veduta qualche signora con il SUV che accompagna i bambini a scuola con l'antibufali davanti. Ma è solo invidia. 800 24 00 24. Il quadro mi sembra sia quadro completo e espressivamente abbastanza ascrivibile all'esperienza di ogni persona che ascolta. Quindi chiamate come ha fatto Giorgio in questo momento. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a te. 80.000 chilometri all'anno? Sì, sì, io vivo in macchina, per cui la macchina è la mia casa, il mio ufficio, è un luogo di godimento e anche di incassatura. Luogo di godimento in che senso? Perché può capitare che sei in dolce compagnia e in certi momenti si mollano i freni, no? Sì, ma come si fa? Le automobili, dunque, io appartengo a un'altra generazione, sono ancora di quelli che con 30.000 lire faceva fare il ribaltabile la 500 che gli aveva di famiglia. Oggi diciamo che fra i due sedili esiste un intoppo abbastanza evidente, cambio automatico, c'è tutto un affare in mezzo. Come si fa con le macchine di oggi? Solo per capire. Che, visto... No, perché io sono un professionista della macchina, per cui ho una macchina adeguata alla strada che faccio. Sì, ma allora diciamoci un po', si va nel sedile accanto o nel sedile dietro? Allora, è indifferente, è una questione di fantasia. Sì, però uno deve scendere e risalire dall'altra parte, non si può travalicare il ponte in mezzo. Eh sì, saltare. Di zompo, no? Però, scusa... No, dobbiamo entrare nei particolari tecnici. Andiamo appunto a quello che volevi dire, se no non vorrei... No, volevo dirti che, essendo una persona che sta tanto in macchina, sono diventato un osservatore. Ma non c'è pericolo che parta l'airbag, no? Quello del... No, l'airbag ha dei sensori davanti, non parte così, per lancio. Ah, no. Va bene, andiamo avanti. E ti dicevo che, quindi, osservando la macchina, la persona che ci sta dentro, ragionevolmente riesco a capire che persona è. Ah, quindi come il grafologo dalla calligrafia capisce, tu lo capisci l'automobile. Esatto, lo vedi da alcuni particolari, da quelli che sono insicuri, hanno una macchina con una pulizia maniacale. E che ha una macchina... Hanno il proprio tappetino, hai capito? Che ha una macchina lercia, la lascia sempre fuori, la prende una volta a settimana, e c'ha... Sì. Come? Riesce a capire chi è l'utente, come la donna in SUV, molte di queste sono delle donne sicure, depresse, le vedi da come guidano. Ma sono semplicemente donne benestanti, secondo me, che giustamente si comprano quello che può essere uno status symbol adeguato alla loro capacità d'acquisto. Dalla tua macchina cosa si capisce, secondo te? È che sono una che la usa per lavoro. Lo vedi subito. Qual è la deformazione professionale, l'attività logorante che se vedo un signore camminare per strada capisco come te usa la macchina per lavoro? Perché io sono un manager di una società che produce prodotti di largo consumo, quindi giro tantissimo e la mia macchina è piena di carte. Ah. E quando devo liberarla ho uno scatolone in plastica dove riverso tutto e per ritorna a posto. Senti, fai un'operazione di riverginamento l'automobile dopo un viaggetto un po' lungo per non lasciare tracce di questa tua frequentazione? È una procedura per me. Una procedura normale questa? Sì. Va bene, grazie, un vero professionista. Io dico, a voi imbranati al volante... Ma che cacchio state al centro della carreggiata? Come a dire, io vado lento e tu stai dietro, così rispetti anche i limiti. Ma brutto stro... Non lo vedi che hai intasato 12 chilometri di rete stradale? Io ti devo sorpassare e sono costretto a passarti radente perché dal senso opposto ci sono file con in testa incapaci come te. Ma prendi il bus o il tram. Ah, la maleducazione del parcheggio e la sosta. Se fai l'amore come parcheggi, non ti meravigliare se hai le corna. Taglierei le gomme a tutti quelli in doppia e terza fila, che non solo chiudono chi sta parcheggiato bene, ma riducono la strada e si creano colli di bottiglia in cui si perdono le ore. Poi, per pulirsi il naso, nulla è più indicato del dito. Lo rivendico con forza. Per questo ho i vetri fumé. Ho 800 24 00 24, rapporto simbiotico, rapporto stretto, rapporto viscerale, rapporto quasi erotico fra uomo e automobile. Ogni uomo ha la sua automobile. Normalmente non usiamo esperti nel nostro programma, non usiamo persone che hanno qualifiche ufficiali, però questa mattina ne ho uno, casualmente. Ieri sera ho sbagliato le dosi del margarita, ho esagerato con la tequila, quindi questa mattina, uscendo da casa, sul pianerottolo ho ritrovato Riccardo Alemanno. Buongiorno a tutti. Riccardo Alemanno, lo sapete, fa parte del gruppo Canoro Musical da Cucinino, Casa Alemanno, che spesso vi ha lietato durante questa trasmissione, ma in realtà è un professionista, è direttore dell'ACI di Rieti, quindi di automobili se ne intende. In forma assolutamente non ufficiale, questa mattina ci dà dei brandelli della sua competenza. Riccardo, tu che di automobili ti intendi, ma quando vengono da te che devono acquistare un'automobile, cosa ti chiedono innanzitutto? Beh, innanzitutto quando si acquista un'automobile, poi questa esperienza la facciamo anche con i nostri amici stretti, noi ci informiamo sempre, con questa bella macchina che euro è, euro 4, euro 5, così posso andare al centro, che classe di inquinamento ha, quindi se c'è l'esenzione del bollo e quanto dura, 2-3 anni eccetera. Però poi, entrati nella macchina, spesso questo avviene tra uomini, la prima domanda che si fa quando si resta soli è ma quanto fa? Quanto corre? Che cifra massima segna il contachilometri, il tachimetro, e soprattutto se l'hai provata, e hanno tutti il tratto autostradale o del raccordo preferito dove si mettono a provare le loro... No, io mi ricordo quando ero ragazzo giovane, la Mini era la macchina più veloce uno poteva immaginare, perché aveva scritto 200 sul contachilometri, cioè, c'ha scritto 200 sul contachilometri, ti parlo dei miserevoli anni 70. Certo, certo. Senti, invece, rispetto alle abitudini nazionali, dacci dei brandelli di competenza, così salviamo almeno la faccia. Rispetto ad altre popolazioni, altre latitudini, l'italiano ha un rapporto talmente viscerale con l'automobile, talmente personalizzato, se potesse se la porterebbe in casa e se la terrebbe nel salotto, che evita che lui possa applicare alcune forme di velocizzazione, di razionalizzazione del traffico, non so, penso al car sharing, carpooling, queste forme, sì, che all'estero vanno molto. Ti sei mai domandato perché? Queste sono le forme condivise del mezzo privato, che sono diffuse nel nord Europa, soprattutto in Svizzera, in Germania, in Olanda, dove è molto appunto diffuso il fenomeno di condividere l'automobile, o famoso, quello che citevi tu, il car sharing, cioè nel caso in cui, come dire, si condivide un parco veicoli perché una società professionale lo gestisce, si diventa soci e quindi si condividono le auto andando ai parcheggi di scambio e usandole. Oppure perché, per esempio, ci si mette d'accordo tra colleghi: ecco, io devo andare da Roma a Rieti, il mio vicino di casa... Se in Italia se dici parcheggio di scambio, subito pensano un'altra cosa. Esistono anche mappe su questo. Poi... Certo, però ecco, in Italia invece, forse perché siamo arrivati al benessere in ritardo, forse che abbiamo una mentalità più individualista, non riusciamo a scindere l'uso dell'auto dal suo possesso. Quindi la proprietà per noi, la proprietà privata, fin dall'epoca degli antichi romani, è la forma, come dire, mistica, come diresti tu, di detenzione di un oggetto. Quindi la macchina è il simbolo della nostra personalità, e quindi noi vogliamo l'autotempio di Nicola, l'autoufficio di Giorgio, l'autogabinetto di decenza di cui parlavi tu. È la mia, ci faccio quello che voglio, ci faccio le puzze, mi ci scaccolo, ci faccio il grande, il gradasso, ci faccio l'amore, ci penso, ci rifletto, guai che me la tocca. Grazie Riccardo, vedo che hai mantenuto la lucidità, mi fa molto piacere. Melog 2.0 800 24 00 24, l'uomo e la macchina, dice Gianluigi su Facebook. L'essere autouomo è una nuova specie nata dalla simbiosi tra uomo e macchina. Questa nuova specie non è molto compatibile con la specie di provenienza. Poi Bruno mi dice: scavalcare, alludendo alla peripezia che io, di cui volevo spiegazioni, del nostro amico, ci ha chiamato prima, che si accoppia furiosamente nella sua automobile, per lui è anche al covo, oltre a essere il luogo preferibile delle sue riflessioni, dice: cosa impossibile per quelli come me, alti 1,93 m, anche con auto grosse. Cinzia, buongiorno. Buongiorno. Ecco finalmente una donna al volante. Rappresenta degnamente sempre la sua... al volante. La sua... Anche lei sta molto al volante? Tanto. Allora, in genere... Ma lei è di quelle che si trucca la mattina in coda? No, assolutamente, non mi trucco mai. No, è bello, sullo specchietto è bello vedere le signore, si fanno belle, a me affascina molto. Raramente, poi non riesco perché sono molto miope, quindi dovevo proprio attaccarmi allo specchietto, è un'impresa veramente tragica. Quindi lei è di quelle che guidano praticamente abbracciate al volante, allo sterzo? Sì, più o meno, guido abbracciato allo sterzo. Allora, sto le ore in macchina perché in ufficio, io abito a Milano, abito dall'altra parte della città, abito a nord-est, c'ho l'ufficio a sud-ovest, oramai la tangenziale est-ovest è diventato il mio incubo quotidiano, sto in genere un'ora, due ore quando c'è il traffico. Cioè due ore seduta in automobile? Sì, allora... In queste due ore... Come sono rassegnata, sono rassegnata ormai, al mattino, perché la sera esco molto tardi per evitare di restare imbottigliata anche la sera. Quindi lei due ore la mattina e due ore la sera? No, la sera esco tardi, esco dopo le 7:30, così riesco a farla... Quindi in media quante ore sta seduta in automobile al giorno? Beh, io in genere sto due giorni in ufficio, due o tre giorni, e gli altri due giorni fuori per lavoro, e quindi viaggio in tutto il nord, diciamo, da Torino a Bolzano fino alla Toscana, perché sono lavoro nel commerciale. Senta, ma come ha personalizzato la sua automobile? Deodoranti? No, assolutamente, tendine? Le odio quelle cose. Nella mia automobile non c'è assolutamente niente. Non c'è tocco femminile? No, devo dire che di tocco femminile c'è poco. Ah, ecco, sto guardando, c'è il tubetto della crema per mani nella tasca laterale. Quello forse è l'unico. Ma se lei è si unge le mani... Il burro cacao, che oramai è completamente squagliato, ha perso la se forma. Se si unge le mani mentre guida, poi non le sguscia via lo sterzo di mano? Ma no, ma prima di salire in ufficio magari la metto, ma poi è lì chissà da quanto tempo. Ci saranno tutti i capelli sulla moquette, però quelli sì. Sì, quelli sì, quelli sicuramente. Beh, tipico. Sì. Lo so, succede. Ti posso dire le persone che odio in macchina? Sì. Quando divento veramente... A lei non capita mai quelle cose in macchina che diceva il suo collega prima, no? Magari quando ero giovane, non adesso. Ero giovane. Quanti anni ha? Ne ho 45. Vabbè, se a 45 una la mettesse sotto naftalina, signora, non sarebbe una bella cosa. No, 45. Per carità, diciamo che usa dei posti un po' più comodi della macchina. Ah, beh, ecco, dei posti più comodi, perfetta. È una scelta anche quella. È una diciamo scelta. Che a 20 anni magari si usava la macchina. Allora, lei cosa pensa delle persone che le stanno attorno? Allora, alcune le odio profondamente. Bisogna distinguere quando una viaggia in autostrada e quando viaggi in città. Allora, in autostrada la categoria che più odio, e anche in tangenziale, è A, quelli che stanno nella corsia di centro e viaggiano pianissimo, che potrebbero stare benissimo a destra, e invece di farti andare. Sì. B, l'eccesso opposto, quelli che vanno come i pazzi a 180 nella corsia di sorpasso, tu stai sorpassando magari a 140. E lampeggiano. E lampeggiano terribilmente, ti vengono proprio dietro. E allora io lì divento bastarda. Mi sposto, li faccio passare, poi mi rimetto dietro a loro e vado fortissimo lampeggio e gli vado veramente a culo, perché secondo me se lo meritano. Non è una bella azione però, signor. Va bene, anche la loro è una bella azione. Sì, però rischia la vita. Ecco, vedi, è uscita la bestia che è lei. No, mi fa piacere. Io mi sposto sempre, non sono una che sta ferma in corsia di sorpasso, ci sto proprio il minimo indispensabile. Occhio per occhio, dente per dente. Bravissimo, occhio per occhio, dente lei per fa dente. Quel brutto gestaccio che oggi va di moda, che 20 anni fa nessuno avrebbe capito nemmeno, dopo che l'onorevole Santanchè, allora onorevole, lo rese famoso, che alza il dito medio e mostra... No, assolutamente no, lo trovo molto volgare. Qual è il gesto schifoso che fa lei di solito? Le corna? Alzo la mano e dico ma che vuoi, cioè con la mano che fa il segno ma che vuoi. E le rispondono facendo, che so, con la lingua di fuori, con le cose oscene, ammiccamenti, no? No, purtroppo no. La saluto, grazie signora, riprenda la sua strada e mi raccomando non vada, come ha detto lei, nel paraurti posteriore delle macchine che le stanno di fronte, anche perché se frenano di colpo, anche quello sarebbe un bello scherzo, lei si spiaccica e diventa una sottiletta in scatola e poi deve anche pagare, mi dice Alemanno che essendo dell'ACI queste cose se ne intende. Allora adesso vi mostro un'altra tendenza tipica del nostro paese. Noi le tendenze le cogliamo vedendo quelli che sono i generi spontanei che nascono nella televisione spontanea, che è appunto YouTube. In YouTube c'è un genere. Sono quelli che sorpassano le macchine, normalmente macchine veloci o macchine sportive come Ferrari, come bellissime macchine. E mentre le sorpassano, magari questo è fermo, è parcheggiato, sta andando lentissimo perché cerca una strada da pervoltare, fingono di essere più veloci loro e si filmano col telefonino e rappresentano su YouTube questo momento epico del sorpasso con la loro macchinetta della grande macchina sportiva. Ferrari, le Ferrari, sorpassiamo, dai! Vai, sorpassiamo le Ferrari con l'Alfa! Dietro l'altro cavallino grigio e io con l'Alfettina. E vai! Partiti! Via! Vai, bussa, bussa! Ecco! Arrabbiati sul passo! Arrabbiati sul passo! Andiamo! Andiamo! Andiamo a vincere! Ecco, ognuno si diverte come può, questo è uno dei tanti divertimenti. Fingere e immortalare con il proprio telefonino la propria velocità nel sorpassare una macchina, magari lì fermo perché sta comprando il giornale o qualcosa del genere. Ma questo è un motivo compensatorio. Chi non ha la macchina veloce non ha la potenza virile, non ha l'intrepidezza che magari ha colui che ha il bolide disposto a vincere qualsiasi record. Ecco, a proposito del rapporto fra propria espressività, propria potenza, proprio desiderio di immensità e la propria automobile, sono nati in Facebook due gruppi antagonisti. Il primo è il gruppo Grande SUV Piccolo Pene, il cui presidente è in Australia, l'ho chiamato ieri, non ha potuto partecipare, e quindi dà la voce al vicepresidente. Alessandro Costis, buongiorno. Buongiorno. Lei rappresenta, mi sembra, un 20.000 persone o qualcosa del genere di questo gruppo. Siamo 2.000 però. Ah, 2.000, però 2.000. Speriamo di raggiungere presto i 20.000. 2.000 persone. Ecco, 2.000. Come gli è venuto in mente di creare un gruppo così agguerrito che rappresenta in maniera così vergognosa questo indegno rapporto fra la grande macchina e la dimensione risibile del proprio apparato sessuale? No, beh, ci ha spinto sicuramente il grande odio che proviamo verso questi macchinoni chiamati SUV, e la teoria di fondo che abbracciamo è appunto il rapporto inversamente proporzionale che lega l'avere un grande mezzo con appunto una piccola virilità. Appunto, secondo noi è un'ostentazione di opulenza che fa sì che insomma si cerca di mascherare appunto la propria virilità con un grande mezzo che sì, però molte volte sono anche donne che hanno il SUV, come ve l'ho spiegato in questo caso, anzi questo invece è invidia del pene. Ah, invidia del pene, perfetto. Allora resti in ascolto perché adesso presento anche l'altro suo collega di gruppo su Facebook. Abbiamo Niccolò che è il presidente del gruppo Piccolo Macchinino Grande Testa di C, diciamo così, va, se no esageriamo con il turpiloquio. Buongiorno Niccolò. Buongiorno, buongiorno. Lei con chi ce l'ha in particolare, il vostro gruppo? Il piccolo macchinino non è la macchina piccola. Cioè, l'abbiamo capito, sono quelle schifose macchinette che comprano, esatto, ai figli di papà, che i nostri figli poi ce le chiedono e noi non gliele possiamo comprare perché costano migliaia di euro e dicono: papà, quello ce l'ha, e tu vedi questo schifoso bambino, stupido, cretino, ragazzino dentro una macchinina che occupa spazio e invade la corsia. Ma io non ce l'ho con loro, naturalmente, quanto fosse un'altra macchina. Prego. Perché come il SUV va paragonato alla macchina, il macchinino va paragonato al motorino, essendo appunto un motorino costruito a mano che consuma come un SUV, che costa quasi come un SUV. Parcheggia come un SUV. Parcheggia con un SUV. Alcuni dicono vabbè, c'è la possibilità di entrare nelle ZTL. Resta il fatto che sono macchine che possono essere guidate già a 14 anni, molte persone anziane le usano, noi non ce l'abbiamo contro di loro. Guarda, le do un dato, Riccardo Alemanno, a proposito, per la tua competenza professionale, dei macchinini, chi li usa oltre ai ragazzini e gli anziani? Per quello che può interessare, forse non tutti sanno che per il macchinino non occorre avere una patente quale quella per le auto, quindi molto spesso alcune persone a cui è stata ritirata la patente, come dire, si acquistano la city car perché la possono guidare. Quindi sono gli automobilisti più indisciplinati, è come fosse libertà vigilata. Sotto un punto di vista così formale dovremmo dire. Gli anziani dire possono essere quelli che non possono più avere la patente perché non hanno più magari le diottrie sufficienti. Quindi triplamente pericoloso. È possibile. Anziano con macchinino e cappello in testa poi equivale naturalmente a una bomba atomica. 800 24 00 24, ci siamo lasciati prendere un po' la mano perché noi capiamo e viviamo sulla nostra carne questa meravigliosa uscita dal corpo quando si entra in contatto con un'automobile. Ma non a caso Marinetti, quando lanciò il manifesto del futurismo, diceva che un'automobile in corsa è più bella della Nike di Samotracia. Il vero segno della contemporaneità, che poi ai tempi del movimento futurista ancora c'erano i barlumi semplicemente di quello che stiamo vivendo oggi, l'automobile in corsa rappresentava qualcosa di divino, qualcosa che sfuggiva all'umana capacità di poter concepire i limiti del proprio corpo. La macchina diventa illimitata, si diventa smisurati, si diventa quasi una sorta di chimera mitologica. Noi, uomo in carne ed ossa, ci fondiamo con il metallo dell'automobile e diventiamo qualcos'altro. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Lei dovrebbe a questo punto prendere naturalmente le difese o dare delle ragioni di esistenza ai possessori di SUV che tutti invidiamo, che tutti vorremmo essere al posto loro e naturalmente tutti diciamo di odiare. Certo, le dico anche i motivi. Io faccio 65.000 chilometri l'anno, ho una società di rappresentanza in farmacia. Lei ha piena ragione, lo usa allora, diciamo. Certo, io, è il mio ufficio, viaggio a GPL, per cui inquino meno di uno che ha l'alito cattivo al mattino. Assolutamente. Vivo in una città, Modena, dove c'è un problema anche di controllo. Cioè, io vedo i vigili che non fanno girare le macchine a Euro 0, a Euro 1, non le fermano nonostante ci siano i cartelli, e magari mi fermano a me per fare dei controlli. Io giro sempre con la cintura, un 50% degli automobilisti girano senza cintura, con i bambini seduti davanti o con i bambini seduti dietro senza cintura. Ecco, ma secondo lei, mi scusi, perché bisogna sentirsi in dovere di giustificare un bene di consumo, se uno se lo può permettere, bene che l'abbia? Esiste questa doppia valenza: una parte è luogo comune, mi ci associo perché mi diverto anch'io, dirà c'è il SUV schifoso, e vedere le mamme che portano i bambini la mattina sui marciapiedi con questi bestioni fa un po' sorridere, ma giustamente se le nostre mogli se lo potessero permettere gliene compreremmo 10, diciamoci la verità. Non è mai una scelta ideologica, è una scelta di possibilità economica. Ma il SUV ha delle doti di sicurezza. Io viaggio seduto più in alto, vedo meglio anche con la nebbia, ha delle doti di robustezza, di capienza per il mio lavoro. In questo senso va usato. Ho il cambio automatico, di modo che sono molto più riposato di altri. Ecco un motivo per usare un SUV, per una questione di sicurezza, ma va usato con intelligenza, non va usato per bauscieria, come direbbero a Milano. È questo il discorso. Cioè, per darsi un atteggiamento, perché senza il SUV non ci si sente. È questo. E poi ci sono i controlli che dovrebbero esserci su tutti gli automobilisti. Io ho il Bluetooth, io sto parlando in questo momento con Bluetooth per parlare, anche se sono in autostrada, mi sono fermato anche se ho il Bluetooth. Ma è un problema che in Italia tutti fanno di tutto di più e nessuno controlla. Ecco, altra cosa che non abbiamo mai sottolineato in questa trasmissione, ma è ora di dirlo: l'orripilanza delle persone che ancora usano il telefonino mentre guidano. Devo dire che è una cosa inguardabile. Con il telefonino in mano, tranquilli, se ne fregano del mondo che gli sta intorno e telefonano, che basterebbe un auricolare, anche se uno non è capace di attivare il Bluetooth nel proprio telefonino. Basta un filo, non è una cosa complicata. Basta un filo. I camionisti che usano il telefonino con una roba che ci impiega un chilometro a fermarsi. Scusi, gli autisti di autobus, io non lo prendo mai l'autobus, ma una volta che l'ho preso perché ho portato la macchina a fare il tagliando, l'autista telefonava col telefonino mentre guidava. Vabbè, questo è il nostro male nazionale, tranquillamente ascrivibile a una serie di comportamenti irregolari e fastidiosi. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Lei è un furgonista? Cioè, esatto. Tu sei un furgonista? Io mi reputo il furgone, io sono il mio mezzo praticamente. Tu sei un piccolo abitacolo e dietro, come una lumaca, c'è un grande contenitore e non si sa cosa ci sia dentro. No, io sono un furgone, trasporto ricambi per auto, sono viaggio abbastanza veloce perché comunque i mezzi da adesso mi danno modo di muovermi più velocemente rispetto già a 10-15 anni fa. E quindi cosa succede? Io ormai è come se alla mattina, quando salgo sul mio furgone, divento parte di esso, sia nella guida, nelle manovre. Quindi diventi una bestia come fosse un furgone. Esatto, una bestia, e quando trovo le bestie in giro divento come loro, nel senso, io sono proprio la classica persona che non devi fare incazzare durante la guida, certo. Nel senso, col comportamento errato, non è che io vado in giro spavaldo. Cioè, io sono buono e caro, ma però se mi fate arrabbiare divento una bestia. Perché poi sono anche 1,90 m e mi è capitato più di una volta di scendere e poi di dimostrare. Ma quando scende a mani nude o si porta dietro il cric? No, non sono a quei livelli, non sono un pazzo, nel senso, sono un padre anch'io di famiglia, però mi piace che la gente, cioè, io vivo la strada. Mi scusi, no, perché il particolare è interessante, fa parte. Sì. Lei quando scende dà colpettini sull'automobile e dice all'altro autista scendi che ce la vediamo, oppure ma solitamente diciamo solo il fatto che io scenda da poi luogo alla fuga, perché appunto sono 1,90 m, sono uno sportivo e quando già scendo insomma già la mia mole fa sì che insomma il pensiero, perché solitamente l'autista, quello soprattutto indisciplinato, è anche un po' codardo, è vigliacco, certo, è chiaro, vigliacchissimo. Questo col telefonino lo sa che sta sbagliando, ce l'ha in mano, sbanda, ma maneggia delle carte, io dietro lo guardo. Una volta sono arrivato. Quindi al punto praticamente il suo. Una donna l'ho tamponata di proposito. Ma il furgone della ditta. Io ho la casco, io l'ho tamponata perché era vergognosa sta donna da sola, logicamente, che si muoveva col telefonino, con la sigaretta. c'è proprio la classica persona. E come ha reagito la signora alla tamponatura? Niente, sono sceso, signora, purtroppo se lei mi inchioda, frena, io sto lavorando. Insomma, divento praticamente... Poteva anche farsi male però la signora. No, ma una tamponatina giusta. Sì, una bottarella così, una botta via. Va bene, grazie Paolo. Vincenzo. Sì, ciao. Anche lei diventa un animale? No, io mi reputo una mosca bianca in questo campo. Quindi è uno tranquillo. Io guido gli autobus. Ah, lei... Perché telefonate... Molti dicono che telefonate parecchio quando guidate gli autobus. Non lei in generale, la categoria. No, come ho detto, io mi reputo una mosca bianca perché se sto guidando in autostrada o non rispondo al telefono, oppure rispondo per un attimo, dico ti richiamo appena mi fermo, perché è quasi sempre l'ufficio che chiama. Va bene, lei è veramente una persona degna della nostra stima e vorremmo però voltare pagina, perché abbiamo poco tempo a disposizione, e dare un'ulteriore dimostrazione di quanto ormai l'essere umano si è identificato dal suo mezzo di locomozione. Esiste nella Free Press, in quei giornali meravigliosi che vi danno in mano la mattina circa 3-4, a me dal momento in cui entrate in contatto con il mondo fino al momento in cui lo buttate sul sedile di un autobus o nella scrivania del vostro ufficio, una rubrica molto interessante, una rubrica di annunci amorosi, anzi di richieste amorose, anzi di offerte di incontri amorosi legati sempre a una persona vista dentro un'automobile. Quindi dice, o non dice tu bella signora, capelli biondi, tu signore dal baffo rubizzo che mi guardavi con quell'occhio malandrino, no, descrivono l'automobile e dall'automobile vorrebbero risalire a colui che la guidava. Alla donna con l'Alfa Romeo nera, 147, capelli neri, occhiali da sole, stavi ferma al semaforo di via Giulì. Ti guardavo e volevo presentarmi, Ennio. Al Moro con la Matiz grigia, targa CH, un caffè insieme? Ciao da Rosanna. Alla bella ragazza con vestito a scacchi che ha fatto un incidente a via di Tor di Quinto, vorrei conoscerti, il soccorritore, Alessio. Al ragazzo Moro con Smart bianca, sei veramente carino, ti vorrei conoscere, Giulia. A te chiedi la guida alla Mercedes nera, scusami per la mancata precedenza sulla Laurentina, sei affascinante e guidi molto bene, Fabio. Adesso vi riveliamo un piccolo segreto che metterà in crisi coloro che riempiono queste pagine sulla Free Press. Allora, perché perdete tempo a scrivere in un giornale? Non sapete nemmeno se la persona leggerà il giornale. Per conoscere questa persona è semplicissimo. Basta guardare la targa della macchina e saprete immediatamente come si chiama e dove abita, vero Alemanno? Certamente, saprete anche il segno zodiacale e la data di nascita. E come si fa? Il compleanno. Basta chiedere al pubblico registro automobilistico, anche su internet, la visura del veicolo. Chiunque lo può fare perché è un pubblico registro. Quindi questo sarebbe un argomento che potremmo usare. Una amica mia si è sposata in questo modo. Vedeva un ragazzo tutti i giorni scendere di casa per andare in ufficio, mi ha chiesto la visura il giorno del compleanno. Quanto costa? Mi pare intorno ai 5 euro. Sì, però mi sembra la prima visura sia gratuita. Ho fatto il tentativo una volta, volevo appunto osservare questa maniera. Ci sono tariffe ministeriali. Ah, tariffe ministeriali, benissimo. Andate in internet, prendete la targa e il giorno del compleanno mettete la rosa sul parabrezza. Ecco, è fatto, avete risolto. Elisa, a lei la conclusione, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Sto sorridendo per quello appena ascoltato. A lei mai è capitato di desiderare qualcuno vedendo l'automobile? Allora, di desiderare, no, di dire che è un bel ragazzo, sì, però non farei mai una cosa del genere, mi viene da ridere solo a pensare. Chi apprezza, compra. Chi apprezza, compra, beh, se ci fosse l'occasione, però perlomeno scambiarci due chiacchiere prima, non solo proprio vedendolo in macchina. Beh, basta prendere la targa, andare in internet, può sapere anche come si chiama il giorno del compleanno. Sì, lei sta molto so. In automobile, così ci salutiamo. Io ci passo le ore in automobile perché sono un agente di vendita, quindi parto alle 8 del mattino e torno la sera verso le 5, le 6, quindi è la mia seconda casa, se non addirittura la prima. E sono dipendente dalla mia macchina, sono dipendente anche dal navigatore, perché se ci fosse quello che voce ha il suo navigatore? Il mio navigatore è una voce neutra di una donna neutra che tra l'altro tengo bassa perché preferisco guardare, ormai conosco. Va bene, grazie Elisa, vedo che l'argomento però è molto sentito e vorrei dare spazio ad tantissime persone che ancora vogliono parlarmi del loro rapporto con l'automobile, visto che la radio si ascolta in automobile. Torneremo presto su questo argomento. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.